Allora, adesso vorrei parlare di una struttura che è piuttosto ricorrente e che è questa, cioè che una madre dà alla figlia finché è piccola, ma a un certo punto comincia a chiedere alla figlia, chiede quando ancora la figlia è piccola, ecco, e quindi ha un'azione di cose di vampiro nei confronti della figlia, no? E quindi la figlia si trova in una situazione molto difficile. Immaginiamo di trovare una persona che si chiami, che ha un nome Paola, per esempio. Ok, allora la mamma di Paola, a un certo punto, adolescente, sente dire frasi del tipo: tu non fai mai quello che ti chiedo io. E in realtà Paola si rende conto che non è così, perché Paola dà tantissimo, va bene a scuola, fa tante cose, però per la madre non va mai bene a sufficienza, perché non è mai quello che la madre vuole. I tentativi di Paola di andare incontro alla madre sono regolarmente frustrati. Paola prova in tutti i modi, ma non ce la fa. Che cosa accade allora dentro a Paola? Che si sviluppa un senso di colpa, un senso di colpa perché dice: ma io non vado mai bene. Un senso di colpa che già di per sé stesso è una punizione, perché il senso di colpa produce sofferenza e quindi produce una riduzione di felicità. Quindi abbiamo una Paola che ha 13, 14, 15 anni, non può essere pienamente gioiosa e felice perché comunque non va mai bene. Ora, la reazione di Paola di sentirsi in colpa è solo una delle reazioni. Dentro c'è la sua parte vitale che percepisce l'ingiustizia e quindi prova rabbia. Come mai l'io di Paola, l'io governo di Paola, non sente l'ingiustizia? Perché l'ingiustizia viene perpetuata attraverso un doppio legame. La madre è molto sottile nel fare la richiesta, per cui Paola rimane sempre confusa e non capisce se ha ragione lei o ha ragione la mamma, perché alcune volte la mamma è gentile, è cara, altre volte non lo è, a volte è cara, è gentile, non lo è, e quindi il messaggio finale è che comunque tu non puoi mai essere sicuro, non vai mai bene a sufficienza, e comunque non fai quello che ti chiedo, e comunque in fondo sei cattiva con me. La madre in questo caso era poi, insomma, poi è rimasta sola, cioè, quindi è rimasta vedova, così, quindi la cosa si è aggravata. Allora, questa ragazza, verso i 25-26 anni, ha sviluppato un senso di grande, ha avuto grande stanchezza, gli perdeva energia vitale. Come mai questa stanchezza cronica, fatica ad alzarsi? Vabbè, perché dentro c'è un conflitto tra la parte che si sentiva in colpa e quindi si autopuniva, e la parte che invece era arrabbiata. Sono due visioni completamente diverse della realtà. L'io governo si alleava alla parte della colpa e quindi reprimeva il vitale. Ora, noi sappiamo che quando il nostro centro vitale viene represso, la battaglia ovviamente è molto forte. Il centro vitale dispone, come dice la parola stessa, la maggioranza della nostra energia vitale. Il governo quindi assumeva come ideologia: io sono cattiva, io non vado bene. Quindi, andando avanti, c'è un io che si identifica nella parte colpevole, la madre buona, la cattiva sono io. Poi c'è una parte vitale che vede nella madre, una madre ingiusta, e dice: no, sono io, vado bene, ma questo provoca, uno, rabbia, due, tristezza, perché avere una madre che manda alla figlia un messaggio così disonesto, virgolette, e beh, fa perdere a questa parte ogni fiducia in chi l'ha generata, quindi è una sfiducia di base totale. Questo porta non solo a rabbia, ma anche un lutto, cioè mia madre non è la persona buona che io credevo, quindi la tristezza da una parte, ma dall'altra anche la paura, perché rimanere senza la madre buona è ha le parti più piccole, fa sempre paura. Da dove viene tutto questo meccanismo? Beh, non viene dalla madre, viene da molto prima, viene dalla nonna che dalla mamma vuole prendere e dalla mamma che vuole prendere a Paola. No? C'è una catena, no? Questa catena delle madri che vogliono prendere le figlie non parte solo dalla madre di Paola, ma parte almeno dalla nonna. È in questa famiglia che la nonna ha avuto dei figli e tutti i figli hanno avuto dei disturbi. Ecco, disturbi gravi dal punto di vista psicologico. Quando da adulta, dopo 25-26 anni, la Paola andava da sua madre, si deprimeva, proprio non riusciva a non deprimersi e quindi sentiva di non poter dare a sua madre. La madre ci rimaneva male e Paola anche, quindi in pratica Paola a volte stava bene fuori, ma se andava da sua mamma si scatenava questa catena qua. Mi deprimevo, non posso dare, la madre ci rimane male e io anche. La madre poi ha cominciato a sviluppare sempre più paranoia, perché la paranoia cos'è? La proiezione della propria rabbia rimasta nell'ombra, nel mondo esterno, perché la madre è una donna aggressiva e che praticamente ha mandato a Paola il messaggio: non ci si può fidare di nessuno. Okay. Questo è il quadro. Quindi, dato questo quadro, che cosa si può fare? Ecco, lì si tratta di ricambiare tutta la storia e ricambiare, secondo la nuova tecnologia che stiamo mettendo a punto in questi periodi, la storia inizia prima della nascita di Paola, inizia nell'ambiente familiare, almeno 9 mesi prima della nascita, ma addirittura del concepimento. E quindi lì abbiamo utilizzato una tecnica per cui si va in quel periodo e si mette a posto tutto quello che c'è da mettere a posto. Come si mette a posto? E lì si apre tutta la descrizione di questa tecnica che adesso farò. Allora, da dove vengono, apro un discorso molto generale, da dove viene il male del mondo? Se vogliamo proprio rappresentare in poche il male nevrotico, il male non male inevitabile, certo, se uno si ammala, si ha un incidente, è un male inevitabile, poi si muore, ci si ammala. No, il male che viene prodotto dall'uomo, in che modo è prodotto? È prodotto perché l'uomo ha due forze all'interno, il potere e l'amore. Il potere, sappiamo qual è il simbolo del potere che usiamo, estremizzato, produce poi il nazismo. E quindi il simbolo del potere più potente che conosco è quello della croce uccinata. Dall'altra abbiamo l'amore, e l'amore può essere di vari livelli di intensità. Il più alto amore che io conosco sulla terra è rappresentato dalla croce, cioè del Dio che muore. Del Dio che muore perché vuole salvare col sua sofferenza, pur essendo Dio, quindi non ha certo, non è qualcosa di inevitabile per lui. Gesù, che si è fatto Dio, muore sulla croce. Naturalmente avrebbe potuto evitarlo, quindi è una scelta volontaria, perché questa scelta tolga una parte di dolore del mondo. Ecco. Quindi cosa vuol dire la croce? Vuol dire la rinuncia definitiva per sempre a utilizzare strumenti di potere, quindi colludere col potere dominio. Per questo che la figura di Gesù è così grande, no? Perché proprio è la figura che più di tutte quelle che conosciamo, almeno in Occidente, rappresenta questo passaggio dall'utilizzo del potere alla rinuncia assoluta del potere al punto da patirlo sulla propria carne. Ok, quindi ciò di cui stiamo parlando, la tecnica di cui stiamo parlando, non è tecnica terapeutica, ma è tecnica di guarigione. Di guarigione si intende la guarigione dello spirito della persona. Allora, la Paola, come tutte le persone che nascono in una situazione del genere, non rimane solo a subire. Cioè, una parte sente senso di colpa, dall'altra sviluppa rabbia, la rabbia non gli rimane certo solo dentro, ma la ribalta sulla madre, quindi ci saranno equivalenti aggressivi, ci saranno tutte le cose che ben conosciamo. Quindi il bambino e la bambina in questo caso non è del tutto pulita, perché anche lei a un certo punto utilizza strumenti di potere, come quelli della madre, utilizza strumenti. Quindi si macchia di peccato in senso serio, è la freccia che non raggiunge il bersaglio. Raggiungerebbe il bersaglio, la Paola nel momento in cui stesse bene, ma utilizzando gli strumenti del potere non può star bene. Sta bene soltanto chi rinuncia definitivamente agli strumenti del potere. Questa è la scelta più controintuitiva che esista, perché noi per poter star bene dobbiamo accettare volontariamente, dobbiamo cercare volontariamente la sofferenza. Ecco, e cos'è la cosa più difficile? La sofferenza, e adesso poi dirò come, in tre parole, come avviene la tecnica. Quindi si chiede alla persona, in questo caso Paola, di connettersi con fonte di luce, come simbolo d'amore, per esempio il sole, Gesù, quello che per lei è la cosa più interessante, più forte, riempire il proprio corpo di luce. In questo caso, per esempio, c'è stato subito un ostacolo, perché non si riusciva più a connettersi in quanto c'era ormai una lastra. E quindi abbiamo dovuto lavorare per sciogliere questa nastra. Eravamo un piccolo gruppo e abbiamo, come abbiamo fatto? Abbiamo fatto in modo che le persone andassero loro attraverso la loro azione e la loro azione di respirazione, tutte tecniche energetiche, sciogliessero quella lastra che impediva alla Paola di poter ricevere autonomamente energia, luce e forza di guarigione dall'alto. Fatto questo, la Paola era pronta ad agire, solo che a un certo punto abbiamo visto un altro ostacolo. L'ostacolo era che c'era una parte di lei che assolutamente, con una fede negativa assoluta, non c'era niente da fare. Questa parte avrebbe bloccato tutto il lavoro. Vista questa parte, abbiamo fatto in modo da sciogliere questa fede negativa, perché ormai la Paola era entrata in uno stato di luce e quindi ha guarito la sua parte con la fede negativa. Fatto questo lavoro, avevamo il campo liberato, perché la fede negativa non era altro che, sapete bene come diventa, chi ha fede negativa, chi è nichilista, chi non crede più in niente, in realtà è l'idealista ferito al punto che si trasforma in quello che non crede più in niente, cioè per enantiodromia quello che crede di più diventa quello che crede di meno. Quindi proprio quello che crede di più, la parte che credeva di più, si era trasformata in quella che credeva di meno. Una volta sciolto questo passaggio, è chiaro che cosa è successo, che questa parte che prima era il massimo della fede negativa dentro la Paola è diventata una parte di luce, la parte più potente che c'è. Questa parte di luce più potente che c'è si è riassociata alla Paola e a questi punti si è potuta procedere nel lavoro. Il lavoro è consistito nel andare a lavorare col Tonglen, cioè il Tonglen prendere, dare luce, prendere luce dall'alto, dare luce, poi assorbire il dolore della madre e del padre, finché la madre e il padre erano completamente liberati. A questo punto si è creato il contesto, no, di totale luce, amore e qualità dell'essere, che sono ciò di cui avrebbe bisogno un bambino per essere nascere, per essere concepito, nascere ed essere se stesso. Siccome questo non avviene quasi mai, noi nella vita facciamo tutta una lotta per diventare noi stessi. Perché non lo siamo, noi in realtà siamo deformati, siamo esseri che siamo deformati. Siamo deformati dal campo dismorfico entro cui nasciamo. Okay. Allora, per venirne fuori bisogna ripulire il campo da dismorfico e creare un campo morfico, in questo caso un campo di luce, dove c'è un padre e una madre puliti dal dolore del passato, totalmente pieni d'amore, gratitudine e tutte le altre qualità dell'essere, concepiscono il bambino o la bambina. Questo bambino diventa un bambino di luce che può crescere. E a questi punti, per esempio, il cambiamento è avvenuto poi di tutta la vita, molto rapidamente, perché una volta concepito in quel contesto e in quel campo morfico, poi le forze dell'embrione sono create da miliardi d'anni di evoluzione per andare nei confronti, per evolvere, per diventare chi sei. Ecco, è naturale realizzare se stessi. Ecco. Quindi potremmo dire che gli esseri umani, da quando hanno flirtato col potere, secondo alcuni da 10.000 anni fa, io non saprei esprimere, non ho competenze su questo, praticamente non riescono a essere se stessi, sono qualcos'altro, sono degli esseri deformati dalle strutture di potere a cui prima sono sottoposti, che poi interiorizzano e che praticano contro di sé o contro gli altri o contro di sé e contro gli altri. Questa distorsione dell'essere umano continua a produrre catene di dolore sempre nuove, sempre più grandi, fino al punto in cui ci troviamo oggi, in cui la Terra sta per farci pagare conto di tutta questa mancanza di empatia, mancanza di amore, e abbiamo distrutto quasi l'ecosistema in cui stiamo vivendo. Ecco perché è così urgente che pratiche come questa e altre pratiche di questo tipo si diffondano per liberare gli esseri umani dalla peste psichica fascista nazista che porta le persone ad avere il cuore chiuso e che quando dicono ti amo non è vero, per cui non quando anche dicono amare se stessi non è vero, e quindi per liberare la terra dalla corruzione del linguaggio e dalla corruzione del pensiero distorto, così via. Come vedete, questo non è un lavoro psicologico, è un lavoro politico, è un lavoro spirituale, è un lavoro psicologico, è un lavoro antropologico, cioè è tutto insieme. Noi abbiamo creato una cultura in cui tutti questi aspetti tendono ad essere separati e la separatività è lo strumento attraverso il quale il potere mantiene se stesso e prolifica. Grazie a tecnologie che superino la separatività e quindi vadano verso l'unità, si può riconquistare quella forza che è tipica dell'essere umano, che quindi ha dignità, forza, spiritualità ed è che si può dire è un essere divino. Prima di quello l'essere umano è semplicemente una scimmia mal riuscita. Tutto qua. Benissimo.